L'alba di una nuova domenica, che domenica. Su di noi l'odore vibra come una musica magnetica. Alla radio c'è il boss che canta e suona l'armonica dall'America. Nel nostro cuore il ricordo di una notte fantastica di domenica. Un secondo per connetterci alle nuvole, tra le nuvole. Il tempo tra me e te ha un gusto indissolubile, denso e nobile. Sulla rete un blogger scrive frasi di plastica. God.